in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa della internazionale, diciamo, della scena internazionale. A volte troviamo articoli sull'Italia, a volte troviamo articoli invece su paesi di cui non parliamo spesso, non vediamo parlare spesso, dipende un pochino, e naturalmente ci sono sia argomenti più leggeri che argomenti un pochino meno leggeri. Vorrei iniziare questa settimana da due spunti che un po' si collegano anche a quello che forse un po' così ripetitivamente dico spesso, cioè che non bisogna dimenticare le guerre del passato, le storture, le ingiustizie del passato, naturalmente con lo scopo non di intristirsi ma di evitare che si ripetano. E una cosa che secondo me è un tema che mai abbastanza forse viene spiegato anche ai giovani è quello che è successo in Argentina tra il 1976 e il 1983, quando il paese era prigioniero di una dittatura militare. Furono moltissime le persone che in vari modi, anche che oggi probabilmente potremmo tranquillamente dire di opposizione democratica, cercavano di opporsi alla dittatura militare. E allora pagina 12, che è un settimanale dell'Argentina, racconta, ed è stato internazionale a tradurre questo articolo, come il 29 novembre, pensate, qui appunto parliamo di fatti successi decenni fa, si è concluso il processo ai militari dell'ESMA, che era il centro di detenzione clandestino della dittatura, dove centinaia di persone furono torturate e uccise. Quindi il titolo dell'articolo: l'Argentina condanna i piloti dei voli della morte. La conclusione dell'articolo è questa: ma le condanne e l'esistenza dei processi dimostrano che la perseveranza degli attivisti, dei familiari delle vittime e dei sopravvissuti dà i suoi frutti. Ricorderete tutte le mamme di Plaza de Mayo, la bellissima canzone anche che a loro dedicò Sting, They Dance Alone, ballano da sole, che poi cantò anche in spagnolo. Scrive ancora Victoria Ginsberg in questo articolo: è fondamentale il sostegno della società civile e di chi crede che la democrazia non si possa costruire con l'impunità. La sentenza del 29 novembre è stata possibile anche grazie a loro. E passiamo a una crisi che purtroppo non è per nulla archiviata, anzi è in pieno svolgimento, purtroppo lontano dai riflettori, ed è quella dello Yemen. Lo Yemen, scrive il Daily Star, un quotidiano del Libano, anche in questo caso tradotto questo breve articolo, una sorta di editoriale da internazionale, scrive: lo Yemen continua a precipitare. Probabilmente è la peggiore catastrofe umanitaria in corso nel mondo. Per descrivere la situazione dello Yemen non c'è modo migliore di questa dichiarazione del ministro degli esteri tedesco Sigmar Gabriel, fatta dopo un incontro con il suo collega francese. Qualcuno, io non rispetto qualsiasi tipo di reazione o opinione, potrebbe pensare: sì, certo, può essere la peggiore catastrofe umanitaria, ma in fondo riguarda lo Yemen. Il problema, per chi magari così anche giustamente, ripeto, vuole guardare da un'altra parte, perché in effetti la sensazione, una delle prime sensazioni, è di impotenza completa di fronte a queste crisi, beh, però purtroppo lo Yemen è una pedina importantissima dello scacchiere medio orientale, e sappiamo che a questo scacchiere è poi collegato anche tutto il tema del terrorismo, che purtroppo ci riguarda direttamente in Europa. Questo quindi per lo Yemen. Vi alleggerisco un attimo, spero appunto di non aver appesantito troppo l'umore di alcuno dei nostri ascoltatori, su Monocle, che è questo bellissimo mensile fondato da Tyler Brulé, che è una delle figure secondo me più interessanti del panorama editoriale europeo e mondiale. Sua fu l'invenzione di mensili come Wallpaper, ora ha una rubrica su Financial Times e poi si è inventato questa rivista, e nel numero speciale per il Christmas Special, che quindi copre sia dicembre che gennaio, c'è tutta una guida ai regali. Questa ve la risparmio, anche se molti sono curiosi, ma l'articolo che mi è piaciuto molto viene dalla Finlandia, lo ha scritto Petri Burtsov, e si intitola Read On, cioè continuate a leggere, perché si scopre che in Finlandia, sia nella capitale che in altre città del paese, ci sono delle librerie, ci sono moltissime biblioteche, ma anche degli ibridi, dei ristoranti librerie, dei ristoranti biblioteche. Ci sono delle foto affascinanti, cioè non soltanto ai finlandesi piace leggere, ma gli piace farlo anche appunto in luoghi pubblici e quindi magari facendo anche qualcos'altro, ritagliandosi un'ora, magari che può essere una pausa pranzo o una pausa di relax per leggere, oltre a appunto magari ascoltare musica o incontrare delle persone. Naturalmente in molti di questi luoghi vengono organizzati gruppi di lettura dove magari ci si dà appuntamento per scambiarsi le opinioni e le impressioni su un libro che viene letto da tutti. A proposito di cultura, molto interessante la recensione che è apparsa sul Guardian del nuovo Louvre di Abu Dhabi. Parlavamo di Medio Oriente, di quanto sia comunque sempre una zona cruciale strategica. C'è una sorta di isola felice che sono gli Emirati Arabi Uniti. Alcuni degli Emirati sono molto ricchi in petrolio e continuano a vivere di questo, altri invece come Abu Dhabi non hanno petrolio e quindi stanno puntando su altre cose, per esempio la cultura e il turismo, o meglio il turismo culturale. E da qui la nascita di questo Louvre, è una partnership con il Louvre di Parigi naturalmente, che è una cattedrale nel deserto nel vero senso della parola, perché sorge nel deserto. Io credo che sia comunque, ho visto solo delle foto e chissà, magari prima o poi riuscirò a visitarlo. Credo che sia comunque un progetto bellissimo e interessantissimo, ma ci sono anche alcune critiche, come sempre succede. Per esempio, il giornalista del Guardian che è andato a visitarlo, Oliver Wainwright, è stato molto colpito dal contrasto appunto tra questa cattedrale dell'arte, tra l'altro arte che non sarebbe probabilmente accessibile ai più, ma né ad Abu Dhabi né qui da noi, perché sono tutti quadri di arte moderna contemporanea con quotazioni incredibili. E però c'è questo contrasto con la disuguaglianza che in effetti c'è poi negli Emirati Arabi, ad Abu Dhabi in particolare. Chi c'è stato sa che, per esempio, tutte le persone che lavorano alla costruzione di questi edifici incredibili che ci sono anche a Dubai sono spesso dei lavoratori che vengono da altri paesi e che lavorano in condizioni sicuramente che rasentano lo sfruttamento. Passiamo a un altro argomento, perché a proposito di sfruttamento, che forse spero ce ne sarà sempre di meno, da Science Advances, una rivista scientifica americana, un articolo che si intitola Sulle spalle delle donne, da cui si scopre che nelle prime comunità agricole dell'Europa preistorica, le donne svolgevano lavori particolarmente pesanti, come preparare il terreno per la semina, raccogliere i cereali e macinarli. Lo suggerisce uno studio che ha analizzato in dettaglio le ossa delle braccia e delle gambe di donne vissute in Europa centrale a partire, ascoltate bene, da 7.000 anni fa. Poi naturalmente l'agricoltura si suppone, perché pensate a quanto è difficile appunto il lavoro e quanto affascinante anche il lavoro di scienziati, di paleoantropologi che possono basarsi certo su molte tecniche sempre più avanzate, però devono anche molto affidarsi alla loro intuizione e immaginazione. Poi naturalmente l'agricoltura e i cambiamenti di stile di vita hanno portato modifiche anche allo scheletro degli uomini, ma diverse da quelle delle donne. Passiamo ad altri argomenti, ce ne sono naturalmente tantissimi questa settimana. Vi segnalo in particolare un articolo di Financial Times dove si parla di quel pericolo che sicuramente avevano in molti paventato per l'economia del Regno Unito, che era la fuga delle grandi banche internazionali da Londra come conseguenza della Brexit. Ora che sembra un pochino, ci sono alcuni punti fermi sulle modalità della Brexit. Secondo Financial Times, le grandi banche internazionali che hanno sede nel Regno Unito sposteranno in totale meno di 4.600 dipendenti da Londra in vista della Brexit, ovvero circa il 6% della forza lavoro. E questo è molto meno di quanto appunto si era paventato all'inizio. Per esempio, l'amministratore delegato JP Morgan aveva detto che avrebbero potuto essere spostate fino a 4.000 persone solo della sua banca, e invece probabilmente si arriverà a 700. A proposito invece di tagli, invece che di spostamenti, negli Stati Uniti, dove una delle conseguenze della grande crisi iniziata nel 2008, forse anche prima con il crack di Lehman Brothers, è stata la riforma delle banche. E siccome per esempio la Wells Fargo sta cercando di separare le proprie attività per avere una maggiore trasparenza, ci saranno 60 posti di lavoro tagliati solo nella divisione mutui, ne dà notizia il Wall Street Journal, che purtroppo sappiamo che insomma, negli Stati Uniti le cose, soprattutto per quanto riguarda i licenziamenti, e le razionalizzazioni degli organici, chiamiamoli così con un eufemismo, le cose avvengono molto velocemente. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.